Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Come vi abbiamo anticipato in questi giorni, anche quest'anno Salva Danaio sarà presente al Salone del Risparmio. Il più importante evento italiano dedicato al tema è organizzato da Assogestioni, al tema del risparmio naturalmente, organizzato da Assogestioni dal 18 al 20 aprile presso l'Università Bocconi di Milano. Assogestioni è l'associazione che riunisce le società di gestione del risparmio, le SGR. Si tratta di un evento che da 3 anni coinvolge gli operatori del settore, 3 giornate durante le quali si osservano e si commentano gli scenari, le prospettive dei mercati, tema quanto mai attuale da almeno 5 anni, confrontandosi sui cambiamenti registrati negli ultimi anni e sugli sviluppi previsti per il futuro, anche alla luce delle novità in arrivo dal punto di vista della normativa e anche dal punto di vista degli stimoli che legano il settore al contesto sociale e alle esigenze dei clienti. E quindi abbiamo già dato alcune indicazioni chiave della puntata di oggi: contesto sociale e esigenze dei clienti. Adesso vi spiegherò perché. Noi abbiamo preparato alcune puntate in vista del salone e siamo rimasti incuriositi da uno dei tantissimi convegni in programma in queste 3 giornate. Questo convegno, che ha attirato la nostra attenzione, sarà dedicato al mondo del risparmio visto dalla popolazione di una certa età, dagli over 65. Non la vogliamo chiamare anziana, chiamiamola così perché è chiaramente la definizione più nota e più ricorrente, ma in realtà stiamo parlando della vera e propria colonna portante della nostra società. Lo vedrete sicuramente voi che siete all'ascolto nelle vostre famiglie. In questa fase della vita, più che incrementare i risparmi, diventa importante saperli gestire al meglio. La regola è conservare il capitale, perché questo spesso integra la pensione e in futuro questo aspetto sarà sempre più importante. Per cui si è pensato appunto, in occasione del salone, di dare spazio al tema dell'educazione finanziaria, dell'informazione sui temi del risparmio, legando appunto questo argomento a quella che è la percezione di questi temi tra la popolazione appunto over 65, la cosiddetta terza età. Però ci chiediamo anche noi questa mattina su quali punti c'è l'urgenza di lavorare, come diffondere nel modo più rapido ed efficace questi messaggi, quali sono le tematiche che a questa fascia sociale stanno più a cuore, ovviamente circoscrivendo le tematiche al settore finanziario. Noi oggi ne parliamo a Salva Danaio con 2 tra le personalità che il 20 aprile, proprio al Salone del Risparmio, si concentreranno su questo tema come relatori in questa tavola rotonda che si chiamerà Non è mai troppo tardi al Salone del Risparmio, come vi dicevo. Allora io vi presento Silvano Miniati, presidente di Upter Solidarietà. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Poi vi racconterò ai nostri ascoltatori che cosa fa Upter Solidarietà e perché si è fatta promotrice di questa iniziativa, con la collaborazione della FEBAF, che è la Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza, il segretario generale, dottor Enrico Granata, che saluto, buongiorno e benvenuto anche lei a Salva Danaio. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, ci racconteranno non tanto di che cosa si discuterà al Salone del Risparmio, perché questo l'ho già detto io, ma soprattutto che cos'è che ha mosso questa iniziativa di andare tra la popolazione che ha più di 60 e più di 65 anni, peraltro una popolazione per nulla a riposo, molto attiva. Peraltro abbiamo scoperto, preparando questa trasmissione, che il 2012, quindi l'anno che stiamo vivendo, è l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazione, per cui non c'è nulla di più attuale che discutere appunto dell'attività e del ruolo che nella società hanno queste persone. Non solo sono molto attivi, ma in questo momento, lo sapete bene, in questa crisi che morde, non finisce di mordere, rappresentano appunto la fondamentale rete di protezione sociale che sostiene i giovani, sostiene i figli, sostiene i nipoti nel momento in cui si stanno perdendo posti di lavoro. Sapete bene quanto è importante che la pensione di chi la sta godendo appunto questa pensione, appunto, che tipo di supporto può offrire in questo momento, ma non c'è solamente un supporto di ordine economico e finanziario, c'è anche un supporto, appunto, di ordine emotivo e di altro genere. Noi di tutto questo parleremo questa mattina, soprattutto cercheremo di capire in che cosa consiste Non è mai troppo tardi, che percorso stanno facendo questa organizzazione tra la popolazione anziana e che tipo di percorso in termini di educazione finanziaria. Se volete raccontarci la vostra esperienza, 800 24 00 24, raccontateci qual è il vostro rapporto con l'economia e la finanza. Mi rivolgo soprattutto agli over 60 anni e gli over 65 anni. Andate in banca, oppure la banca, insomma, è ancora un oggetto strano dal quale volete stare distanti. È chiaro che per gran parte della popolazione non è così, però noi ci siamo accorti di recente, quando abbiamo affrontato il tema della necessità di accreditare su un conto corrente la propria pensione, quanto invece per molte persone di una certa età aprire ex novo un rapporto con un intermediario finanziario sia qualcosa di molto difficile, per cui raccontatecene i motivi e noi vi racconteremo, appunto, se è possibile rimuovere questo ostacolo o seppure dovremo darvi ragione, perché no. Allora, oltre a chiamarci in diretta, potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. lo possono fare anche i figli e i nipoti, per gli anziani che hanno in casa. Naturalmente potete interagire con noi in ogni modo che ritenete migliore, appunto, a seconda delle vostre esigenze. Rapidamente la borsa, perché già il tempo sta volando. Il FTSE MIB a Piazza Affari sta recuperando il 2,25% dopo aver bruciato ieri più di 70 miliardi di capitalizzazione, aver perso il 5%, e recuperano tutte le banche molto bene, fra il 5 e il 6% di rialzo tutti i colossi del credito, grazie allo spread che stamattina è ridisceso intorno ai 370 punti base. Ci sono state delle aste di titoli di Stato, 11 miliardi di titoli collocati con scadenza a 3 mesi e a 12 mesi, rendimenti in forte rialzo. Per il titolo ad un anno il rendimento è salito al 2,84%, per quello a 3 mesi il rendimento è salito all'1,24%, dopo che erano discesi molto ed erano arrivati, appunto, a picchi minimi nelle aste di marzo. C'è stata anche un'asta tedesca stamattina, il mercato tedesco ha collocato Bund, il titolo decennale, per 3,87 miliardi, il tasso chiesto dal mercato in questo caso è stato dell'1%. 1,77%, siamo ad una distanza siderale dalla richiesta per il titolo italiano, siamo al 5,5% circa. Per la Germania si tratta del livello più basso di sempre, quindi hai voglia a parlare di spread. Noi però la borsa la lasciamo, tra l'altro dedicheremo all'argomento mercati una puntata di Salvadanaio domani. Adesso invece andiamo alle esigenze finanziarie della popolazione anziana. Ben lontani dalla semplice immagine del nonno che regala al nipotino una busta con qualche banconota al giorno del compleanno, ma anche da quella dei bot people che negli anni Ottanta affollavano le banche pronti ad investire i risparmi di una vita nei rassicuranti titoli di Stato. Gli anziani di oggi, in Italia in particolare, sono investiti di un ruolo nuovo, sempre più importante, e che rende sempre più necessaria una buona consapevolezza e una costante informazione sui temi dell'economia e del risparmio. Attualmente nel nostro paese il rapporto tra gli over 65 e la popolazione tra 15 e 64 anni, considerata in età attiva, è del 30,9%. Nel 2040, si prevede, sarà raddoppiata, arrivando a toccare il 55%. Numeri che danno l'idea dell'importanza crescente degli anziani, spina dorsale della nostra società. Un ruolo fondamentale, quello della cosiddetta terza età, che diventa sempre più evidente nelle dinamiche familiari, in particolare alla luce della crisi, e che vede i nonni e nonne di un tempo restare molto più a lungo ancorati alle responsabilità dei capi famiglia. È per questo che iniziare ad avere i capelli bianchi non può più essere un motivo sufficiente per restare un passo indietro in fatto di risparmio e di gestione del denaro. È importantissimo farsi una cultura dai più vari punti di vista. Dai conti correnti ai mutui, dalla pensione integrativa agli strumenti di investimento, dalle bollette alle rate. Serve, insomma, una sempre maggiore conoscenza finanziaria per individuare le opportunità di investimento migliori e le scelte più sicure e convenienti per proteggere i risparmi messi da parte con tanta fatica. E allora, al Salone del Risparmio la terza età avrà un momento dedicato, la conferenza non è mai troppo tardi. Enrico Granata, segretario generale di FEBAF, la federazione che riunisce banche, assicurazioni e finanza, promotrice di questa iniziativa insieme a Dupter Solidarietà. Poi racconteremo la genesi di tutta l'iniziativa partita lo scorso autunno, questa iniziativa che vuole farsi promotrice appunto di un percorso di educazione finanziaria fra gli over 60 e 65 anni. Ma dottor Granata, intanto al Salone del Risparmio ci faccia un po' il biglietto da visita di questo evento, che peraltro credo che sarà anche aperto a tutti coloro che vorranno partecipare dall'esterno. Sicuramente, la sessione si svolgerà venerdì 20 alle 11.30, è aperto ovviamente a coloro che si sono iscritti o si iscriveranno al Salone del Risparmio, che si articola in una pluralità di eventi. Ci sarà una discussione, ci saranno dei relatori nelle persone del presidente della Fondazione Buozzi, Giorgio Benvenuto, il presidente Mignati di Upte Solidarietà e del sottoscritto. Ovviamente noi contiamo in una massiccia partecipazione e sul fatto che le relazioni siano solo lo spunto, ovviamente nel tempo a disposizione, per un dibattito con i presenti che possa rappresentare quindi un momento dialettico di scambio. Mm-hmm. Modera il vostro collega Paolo Zucca, che è un esperto anche di questo. Che salutiamo, problemi. Che non è anziano, perché invece ancora è un caporedattore attivissimo del Sole 24 Ore di Plus 24. Dottor Granata, l'iniziativa si chiama Non è mai troppo tardi, peraltro per chi vedesse per iscritto il titolo di questo convegno, la E è fatta a forma di euro, il nome dell'iniziativa è significativa, naturalmente è significativo. Che cosa vi ha mosso verso la popolazione anziana? Vogliamo sgomberare il campo anche da eventuali equivoci di chi pensa che le banche si fanno promotrici di questa iniziativa per andare ad ampliare la platea dei potenziali clienti di singoli istituti e singole istituzioni finanziarie? Scusi, le rispondo facendo una piccola premessa, nel senso che la federazione di cui io sono segretario generale, la FEBAF, rappresenta non solo le banche ma anche le assicurazioni e le società di gestione del risparmio. Quindi non si tratta di andare a cercare nuovi clienti per nuovi prodotti di investimento. Quindi diciamo innanzitutto quindi è un discorso di industria finanziaria nel suo complesso e poi alla base e negli obiettivi dell'iniziativa non c'è certo quello di fare marketing, di procacciare clientela, cosa che i singoli e singole imprese finanziarie fanno e devono fare nella loro logica di impresa. Alla base di tutto questo, insieme a Upte Solidarietà, anche al Consorzio Patti-Chiari, c'è la volontà che voi stessi avete segnalato nella introduzione alla trasmissione di accrescere il livello culturale finanziario della popolazione, diciamo over 65 o super 65 anni, perché cultura finanziaria vuol dire conoscenza, ma vuol dire anche consapevolezza e in qualche misura anche competenza, quindi è la premessa necessaria per un dialogo più costruttivo e più sereno anche in molti casi con l'impresa finanziaria che si ha di fronte, sia banca, assicurazione, società di gestione. Certo, diciamo che in qualche maniera il Salone del Risparmio costituisce la sede per fare una presentazione ufficiale dell'iniziativa, che però è partita con dei percorsi, con degli incontri che hanno già cominciato a svilupparsi sul territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di ampliare anche ad altre città questa iniziativa di incontro presso la platea della popolazione anziana. Vi racconteremo adesso come si svolgono questi incontri, che cosa si è scoperto anche in questa relazione fra l'industria della finanza e delle assicurazioni appunto e la popolazione di una fascia di età matura, chiamiamola così. E prima di andare alla pubblicità chiedo ancora un minuto di pazienza al dottor Miniati, vi leggo anche un messaggio che è arrivato da parte di un nostro ascoltatore che dice: il 70% della popolazione vive con 1000 euro al mese e in un periodo come questo state parlando di risparmio, è un problema di pochi e solo di benestanti, forse non avete capito che quasi tutti gli anziani non arrivano a fine mese, non capisco come si faccia a parlare di risparmio. Noi con grande rispetto prendiamo questo sms per partire poi nella seconda parte della nostra trasmissione, perché vi assicuro che questa è la grande consapevolezza alla quale sono arrivati anche gli organizzatori di questo percorso e di questa iniziativa. Non è mai troppo tardi. Non vedo l'ora di cominciare ad ascoltare anche gli amici che ci chiamano da casa con le loro esperienze. Chiedo un minuto di pazienza a Enzo da Bologna, che vuole raccontarci dell'esperienza di suo papà, 90enne, in banca, così poi ci confronteremo con i nostri interlocutori di questa mattina. Silvano Miniati, presidente di UPTER Solidarietà, ci racconta allora che cosa avete scoperto in questo viaggio sul territorio di Roma, nella vostra relazione con la popolazione matura, lo ribadisco. Magari se ci racconta anche rapidamente che cosa fa UPTER Solidarietà, che leggo dal vostro sito è una realtà consolidata nel panorama dell'educazione degli adulti in Italia, perché non si finisce mai di imparare. Eh sì, noi partiamo da un presupposto che è un po' la nostra parola d'ordine, dove diciamo che la mente è come il paracadute, funziona solo quando si apre, altrimenti rischia di non servire a niente. E vorrei partire proprio dalla prima affermazione che c'è nel messaggio che avete ricevuto, quando dice vabbè, 1.000 euro al mese, ma che risparmio, ma perché parlate di risparmio? Io vorrei dire a quel signore, che lo comprendo benissimo il suo malessere, la sua rabbia, che intanto però non tutti quelli che prendono 1.000 euro al mese sono nella stessa condizione, e poi da un punto di vista esistenziale un povero che sa è sempre meno povero di uno che non sa dove mettere le mani per qualsiasi problema, perché nasce molte volte dall'ignoranza della gente, dal non sapere, il fatto di essere costretti a dare la delega a altri a risolvere i problemi, e quando sentiamo parlare di centinaia di migliaia di anziani truffati, non di uno, ci accorgiamo che molte volte questo succede e piove sul bagnato, perché uno che sta male viene anche fregato violando le leggi e tutto il resto. Noi siamo partiti da qui, siamo andati nei centri anziani, nei CRAL, e abbiamo assunto un obiettivo molto semplice: provocare curiosità, cercare di sollecitare la gente a volerne sapere di più, a chiedere, e ci siamo trovati ovviamente nella condizione che è uno spaccato di questo mondo, in assemblee di 50 anziani. Non troviamo tutta gente che prende la stessa pensione, che è povera tutta, che ha tutta lo stesso livello di istruzione. Troviamo il mondo, c'è l'anziano che sa tutto, che passa il tempo al computer a leggersi i listini di borsa, c'è l'anziano che non sa niente, c'è l'anziano che non è mai entrato in banca, c'è l'anziano ad esempio che è imbelvito, perché anche informato male, diciamocelo francamente, questa storia che non puoi riscuotere la pensione, che supera un certo livello se prima non ti fai il conto e così via, vista da questo punto di vista è semplicemente un sopruso da respingere. Se poi ci ragioniamo, come abbiamo fatto noi nelle assemblee, che in questo paese c'è un fenomeno che si chiama evasione fiscale, che colpisce tutti, ma colpisce soprattutto le persone più povere, e che allora lo stesso anziano si indigna e quindi magari capisce il motivo per cui è necessario accreditare allora, sul suo conto la pensione. Il problema della tracciabilità è un problema serio, e che quindi sapere da dove che percorsi fanno i soldi è una delle basi fondamentali per fare la lotta all'evasione, e allora si ragiona diversamente, perché la questione più grave molte volte è che manca l'informazione. Uh-huh. E si fa la pubblicità sulle proprie idee o sui propri prodotti, ma manca l'informazione, perché tutto sommato viviamo in una società contraddittoria, una società che ti invita a debitarti, basta andare in un grande supermercato per vedere, si compra tutto con 10 euro, 15 euro al mese, si incomincia a pagare fra 2 mesi, fra 3 mesi, e naturalmente l'anziano finisce nella trappola, perché molte volte poi tante piccole rate da 10 euro al mese fanno una cifra che non è più sopportabile sul suo bilancio. Cioè, abbiamo una società nella quale c'è l'invito continuo al gioco, e noi sappiamo che i debiti di gioco sono uno dei fattori di impoverimento, magari il debito di gioco che si incomincia a maturare con la giocata da 1 euro. Abbiamo i compro e vende oro, che stanno diventando una sede di spoliazione. Certo, diciamo che i rischi si annidano ovunque, non solo in quelle raccomandazioni ricorrenti che troviamo sui giornali, per esempio quelle che spingono le persone a rischio, come quelle anziane naturalmente, a non aprire la porta quando bussa lo sconosciuto che dice: guarda, sono l'impiegato della posta, hai ritirato adesso la pensione, fai attenzione che sono tutte banconote false e te le devo cambiare. Quindi ce ne sono molti altri di rischi per i quali appunto è bene che gli anziani si preparino ad affrontarli. Mi ha colpito molto, dottor Miniati, quello che lei ha detto poco fa, perché mi incuriosisce poi anche il percorso che ha fatto la vostra iniziativa di collaborazione con l'industria della finanza, perché lei ha detto: gli anziani hanno mille tentazioni come noi, per esempio una delle più forti degli ultimi anni è quella di indebitarsi per comprare magari l'oggetto del desiderio, il frigorifero nuovo, che può essere l'oggetto della necessità più che del desiderio, ma anche il televisore e quant'altro. Quindi tutto questo per arrivarle anche a dire: avete fatto anche un discorso molto chiaro con i soggetti che rappresentano l'industria della finanza, la banca, l'assicurazione, la società che gestisce il risparmio. Attenzione, gli anziani vanno educati, ma anche voi dovete essere educati ad avere un rapporto chiaro e trasparente con queste persone, perché molto spesso non sanno bene quello che fanno. Questo è uno dei problemi che dovrà maturare nel tempo, perché l'educazione degli utenti secondo me obbliga anche chi sta dall'altra parte dello sportello ad aggiornarsi, ad educarsi e a considerare il cittadino che ha davanti un cittadino e non un semplice cliente al quale far fare una cosa anziché un'altra. Da questo punto di vista c'è molto da lavorare. Io ritengo che anche le banche dovrebbero preoccuparsi di un dato che riguarda le banche e anche l'industria farmaceutica. Uno dei primi dati di una campagna per l'educazione della gente è che gli mandi dei messaggi che siano leggibili. Ora io sfido chiunque a ritenere che non si può fare di meglio per quanto riguarda la comunicazione delle banche, per quanto riguarda l'andamento dei conti e così via. La stessa cosa riguarda i farmaci, ad esempio. Se lei si vada a prendere una scatola ai farmaci, c'è dentro quel bigliettino con scritto il bugiardino, perché noi chiamiamo il bugiardino, e mi spieghi un attimo se un anziano potrà mai leggere. Nell'assumere un farmaco, un anziano si fida ciecamente del medico che glielo prescrive, nella relazione con la banca e l'assicurazione diciamo che il rapporto dovrebbe essere lo stesso, e qui però ci sono un po' più di difficoltà. Vi faccio sentire, dottor Granata, poi naturalmente chiedo anche il punto di vista dell'industria finanziaria, vi faccio sentire cosa deve raccontarci Enzo da Bologna. Abbiamo anche Mariuccia dalla provincia di Varese, ma sentiamo appunto subito l'ascoltatore bolognese. Enzo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma allora, metto solo due punti fissi. I miei genitori novantenni, io ho 56 anni, sono 26 anni che sono dirigente d'azienda. I miei genitori sono operai. Mm-hmm. E quindi è un mondo che io conosco e loro l'hanno vissuto molto largamente. E come sempre succede, gli anziani, e non credo che corrano dietro alle televisioni per tecnologiche perché hanno altri problemi, almeno i miei genitori. Fatto vuole che loro si vergognano quando fanno qualcosa o cadono dentro, perché si sentono sminuiti nella loro capacità di autogestione. Esiste la dignità, ecco, chiamiamola dignità. 4-5 anni fa, quando scoppiò l'affare Lehman Brothers e compagnia, mio padre, tutto terrorizzato, un giorno che vado a trovarli, mi disse: sai, la banca mi ha fatto firmare tutta della roba e non ho ben capito, io gli ho sempre detto che doveva essere roba tranquilla perché io questi risparmi li ho messi per il bisogno, se avrò bisogno di cure, di questo, di quest'altro, ma non ho capito niente. Vado in banca e vedo che gli avevano fatto firmare alcuni pacchetti di obbligazioni con la Merrill Lynch, grazie a Dio, e non la Lehman Brothers. Uh-huh. Al che parlo con questa funzionaria e dico: ma scusi, ma roba 5 anni? Al che riuscì a smobilizzare il tutto e rimasero solo 10.000 euro. Però alcune altre decine di migliaia di euro riuscì a smobilizzarli rimettendoci 400-500 euro. Però comunque Enzo ha dovuto intervenire lei, ecco. perché io ho detto meglio perdere qualcosa, ma almeno questa persona che sarebbe mio padre vive sereno. Farla stare in serenità, era certo. Terrorizzato di perdere tutto. Enzo, abbiamo capito perfettamente. Intanto, allora, un prodotto del tutto inappropriato rispetto al profilo dell'investitore, perché è una persona molto avanti con l'età, per cui chiaramente l'orizzonte temporale disponibile, che noi gli auguriamo sia lunghissimo, è evidentemente ridotto. Una consulenza del tutto inadeguata, poca trasparenza nel rapporto appunto con l'intermediario e tutto il pudore di questa persona che naturalmente ad un certo punto però ha avuto anche il coraggio di confessare quello che era successo al figlio, che per fortuna è potuto intervenire. Poi magari non sarebbe successo niente, perché al momento della scadenza questo prodotto avrebbe potuto essere disinvestito in totale tranquillità, però con quello che è successo negli ultimi anni chi avrebbe potuto dirci che poteva andare così o poteva andare al contrario? Adesso vi lascio per un attimo, perché ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, e poi vado da Enrico Granata per chiedergli se più che fare educazione finanziaria nei confronti della popolazione anziana andrebbe rifatto di nuovo un percorso di educazione al rapporto con la clientela da parte dei soggetti che rappresentano l'industria finanziaria. Dottore Enrico Granata, FEBAF, quando senti il caso che abbiamo appena ascoltato, che lei lo potrà immaginare non sarà isolato, insomma, che tipo di riflessione le suscita? Ma la riflessione è che innanzitutto non posso entrare nello specifico del singolo caso, se ci sono ovviamente delle responsabilità. Nel senso che è stato collocato un prodotto che non è appropriato o adeguato per il cliente, questo ha delle conseguenze che in molti casi vedono anche delle controversie fra l'intermediario finanziario e il cliente. Detto questo, rispondo alla sua domanda più generale. È chiaro che l'educazione finanziaria è un tema che coinvolge tutti, non solo la clientela, sia essa anziana o non anziana, ma anche gli stessi intermediari finanziari. Quindi va visto in questa logica, in questo contesto. Quello che aggiungerei è che gli intermediari finanziari operano nell'ambito di regole molto severe e molto dense, spesso eccessive. Io penso si dà un'informazione spesso burocratica, un sacco di documentazione alla clientela che non riesce a districarsi e probabilmente non legge nemmeno. Però è anche vero che c'è una certa imposizione, diciamo, legislativa quindi a banca molto tempo. È proprio semplificare i messaggi, semplificare i concetti, semplificare il livello di conoscenza, di modo che il cliente, anziano o non anziano, parliamo in questi casi in questo caso dell'anziano, sia messo in condizione di avvicinare la banca o l'assicurazione in una situazione di maggiore serenità o di serenità totale. Questo è il punto. Quando ha dato prima notizie all'inizio della trasmissione sull'andamento dei mercati, ha introdotto dei concetti come FTSE MIB, capitalizzazione, spread, rendimenti in rialzo, bund. Ecco, tutte cose che sono forse mi devo cospargere il capo di cenere anche io oggi, perché altrimenti neanche noi attireremo la popolazione di una certa età appunto ad ascoltare la radio. Ha ragione. Voglio dire, non è certamente l'obiettivo dell'iniziativa trasformare tutta la popolazione, in particolare gli anziani, anche gli anziani, in dei tecnici, ma renderli più familiari e più in grado di avvicinare concetti che altrimenti sono respingenti e finiscono per respingere anche il cliente dagli intermediari finanziari. Allora, sentiamo Maruccia dalla provincia di Varese, perché invece ci denuncia un'altra cosa e addirittura insomma dice che quando si va in banca si viene trattati male. Maruccia, buongiorno, che le è successo? Buongiorno, no, niente, la mia impressione da alcuni anni a questa parte, dopo vari funzionari che mi seguono, ho l'impressione che vengo, diciamo, in generale presa all'acqua di rose quando magari sentendo che le vostre trasmissioni vado a fare delle rimostranze. Certo. Ora, o delle domande che sono del tutto legittime. Dopo qualche anno che pago 9 euro al mese di spese di conto corrente, loro, quando è stato il momento che me l'hanno proposto alcuni anni fa, compreso carta di credito, io faccio uso di questi sistemi, carta di credito, bancomat, così, e di conseguenza ho scoperto che c'è un conto pensionati che costa niente e ha gli stessi vantaggi, al che ho chiamato la banca e la signora che mi ha detto sì, ma non lo sa, va bene, adesso vedremo. Sono andato e ho detto: senta signora, io vorrei che lei mi modificasse il mio conto, se no lo sposto. E mi fa: ma adesso in aprile le scade un'assicurazione, premesso che io... Cosa c'entra, certo, intanto? Piccolo capitale che ho, ho cercato sempre di fare a capitale garantito, adesso poi avevo trovato un funzionario che mi aveva modificato, insomma era stato onesto. E allora adesso ho detto: va bene, quando scade l'assicurazione voi mi avvisate, io vengo e mi modificate le condizioni, se no chiudo il conto. E in più... Ho lottato per 3 anni per avere un rimborso di un addebito della carta di credito che non ho mai avuto. Però non ha mollato Mariuccia. No, discutendo col vice direttore e dicendo che se glieli dovevo me li addebitavano, ma siccome li devono non me li hanno dati. Però questo funzionario era riuscito a farmi pagare delle spese, non so, fatto sta che sono andata pari. Ecco. Ora io dico... Quando noi andiamo in banca, questa gente qui che a volte si credono padri eterni, non potrebbero avere un pochino più di condiscendenza e di onestà nei confronti nostri? Signorina, io prendo 900 euro al mese, riesco più a investire niente, però riesco un pochino a risparmiare, ad accantonare, ad avere qualcosa sul conto per fare le mie spese. Certo. Però rinuncio alle vacanze, rinuncio ai vestiti, la spesa più grossa sono le bollette e la benzina, perché vado a fare la call a casa delle mie figlie e ne ho 4 in giro per la Lombardia a giorni alterni. Di conseguenza dico, quando noi andiamo con quei 4 spiccioli che abbiamo, siate onesti e chiari. Allora sì, capisco, l'educazione prima la devono fare i funzionari e dopo gli anziani. Mariuccia, io veramente oggi se potessi me la sposerei. Lei è stata veramente l'emblema più azzeccato per la nostra trasmissione, l'abbiamo veramente così trovata del tutto casualmente la testimonianza di questa ascoltatrice. Silvano Miniati, l'obiettivo della vostra iniziativa è farle diventare un po' tutti consapevoli come Mariuccia. È quello di avere tanti signora Mariuccia. Perché quando la gente si comporta così, va decisa, informata e così via, tutela buonissima parte dei propri interessi. E siccome viviamo in un mondo nel quale c'è l'anno del volontariato, c'è l'anno dell'invecchiamento attivo, c'è l'anno degli anziani, sembra che questi problemi si risolvano con una cerimonia annuale. Qui il problema è della vita di tutti i giorni, per questo vale il criterio dell'educazione per tutto l'arco della vita. Ed è per questo che, per quanto riguarda per esempio Milano, le associazioni che con noi stanno incominciando a realizzare questo progetto, cioè ALA Milano, Associazione Diritti degli Anziani, cioè ADA di Milano e Lombardia, l'ANCESCAO e il Circolo Culturale Luigi Borroni, da dopo il Salone inizieranno subito a andare sul campo, perché è chiaro, per noi è importantissimo che venga tanta gente al Salone, che partecipa al dibattito, ma è soprattutto importante che dalla mattina dopo ci siano posti di ritrovo nei quali gli anziani si trovano, dove si incomincia a discutere davvero. Certo, allora quindi dopo Roma e Milano, intanto Miniati, impegnatevi anche a portare in altre città italiane questa vostra iniziativa, perché mi sembra fondamentale. Mariuccia sarà già lì a Varese, pronta a sollevare tutte le questioni del mondo e tutte le criticità del mondo nel rapporto tra cliente di una certa età e banca. Io so che l'ho interrotta brutalmente, peraltro c'era anche un altro ascoltatore che voleva intervenire, Sergio da Napoli, che ci voleva raccontare che a sua mamma hanno fatto sottoscrivere delle obbligazioni folli. Io direi che il primo insegnamento che dobbiamo dare alla popolazione anziana, quando andate in banca e vi volete far suggerire al meglio il percorso migliore per gestire bene il vostro risparmio, se non capite quello che vi propongono, un sano no e vedrete che non vi succede niente. Al limite i soldi rimangono sul conto corrente, nessuno ve li porta via. Noi ci dobbiamo fermare adesso, perché abbiamo, sempre a proposito di anziani, di coloro che la pensione la percepiscono, per fortuna, perché noi che abbiamo un'età un po' più giovane, appunto, chissà quando ci andremo, abbiamo le pillole curate in collaborazione con l'INPS, pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Noi questa settimana ci stiamo occupando delle pensioni anticipate. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. È prevista un'età anagrafica minima per la nuova pensione anticipata? No, non è prevista. A differenza delle pensioni di vecchiaia, un'età minima da raggiungere per ottenere la pensione anticipata. Chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni, però, dovrà accettare una piccola penalizzazione. La riduzione della pensione sarà pari all'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di 2 anni e al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2. Questo significa, per esempio, che se si va in pensione anticipata a 61 anni, si avrà un taglio dell'1%. Se si va in pensione a 59, si avrà un taglio del 4%. Abbiamo terminato la nostra trasmissione. Silvano Miniati, Upter Solidarietà, buona giornata e grazie per essere stato con noi. Grazie. Torneremo. A voi, vi ringrazio tantissimo, buon lavoro. Grazie, grazie anche ad Enrico Granata. Ci sente? Grazie, grazie molte. Naturalmente l'appuntamento è il 20 aprile al Salone dei Risparmi a Milano. Per tutti coloro che volessero andare a saperne qualcosa di più di questa iniziativa, non è mai troppo tardi. Noi torneremo sicuramente a parlarne perché ci sono stati molti ascoltatori molto interessati a questo tema. Grazie, a domani.